24 mattino. Eccoci qui, ritornati, Radio 24, 8, 18 minuti, 18 secondi, è arrivato il momento dei cani e dei gatti e lo vedo, è qui davanti a me, Oscar Giannino. Allora, solo per darvi un aggiornamento, il numero è 800240024, ma c'è stata un'insurrezione, caro Oscar. L'insurrezione. 5 messaggi di furibondi abitanti del Friuli Venezia Giulia, arrabbiati perché ho letto una statistica che c'è oggi sul Corriere della Sera dei punti tolti della patente, da cui risulta che il Friuli in percentuale è la regione col più alto numero di detrazioni. Li chiamano punti zero. Però la mia domanda è: ma se mi avessero detto che il Lazio o la Sardegna sono le regioni che hanno punti zero più delle altre, a me mi sarebbe fregato nulla, e non è un crimine, non è che stiamo dicendo che c'è. Però vedi l'aspetto positivo, l'aspetto positivo è l'identità. Vedi, quando dicono che in Italia non è vero che ci sono identità, non è radici, vero che in Friuli detraggono. No, e l'argomentazione, però l'argomentazione è giusta e quindi va citata, la stessa di tutti i messaggi diversi che abbiamo ricevuti. Caro Telese, in Friuli i punti sulla patente li perdiamo perché chi deve controllare controlla. Per esempio, ma magari è vero, conto, si capiscono più cose di come funziona, non funziona l'Italia anche attraverso le reazioni locali, ma questo capito, ma anche in Piemonte controllano, eppure c'è una percentuale più bassa, anche in Emilia Romagna controllano, cioè io non capisco perché uno si deve arrabbiare. Però friulani, chiamate, senti, spiegateci, perché siete altro aspetto positivo, incensurati, è una, comunque una cosa positiva che reagiscano rispetto a parte d'Italia dove da sempre domina l'illegalità e neanche reagiscono perché ci sono così abituati, capisci? È vero, però invece la cosa bella di questa carta, però, Oscar, ragionandoci, è che l'Italia è mischiata, non c'è un nord e un sud, il più basso numero di detrazioni per abitante in Basilicata, la penultima piano, regione, la tassi di legalità della Basilicata notoriamente non sono elevati su nessun fronte, quindi la Basilicata è una regione in cui non c'è criminalità. No, non c'è criminalità, però se vai a vedere il percentuale di evasione IVA eccetera eccetera sulle carte, la Valle d'Aosta è la seconda regione virtuosa, l'Umbria è la terza, il Molise è la quarta, la Sicilia è la quinta. E poi per trovare una regione del nord bisogna trovare il Trentino, che è molto legalitario. Però tieni conto, per a te quanti punti ti hanno detratto ultimamente? Dai, facciamo outing. Non mi hanno niente, che io sappia o ricordi, e dovrei saperlo visto che la patente è la mia. Non ho detrazioni. Bene, io confesso, mi hanno detratto da poco dei punti per, mi pare, due per un eccesso di velocità. Ero a 77 ora sulle tangenziali di Milano, che è una cosa pazzesca. A Milano con 77 il minimo. E io voglio dire, non mi vergogno. Vai. Però a proposito di, rimanendo sempre sull'ambito legalità, ma con un richiamo più grave, perché l'Italia a volte ha dei buchi e ce ne occupiamo anche poco. Per esempio, io invece sono da anni, mi batto perché ci sia più attenzione di tutti, anche dell'informazione, sulla tragica situazione che da anni è in corso nel Foggiano, dove invece è criminalità organizzata, proprio è mafia. Allora, sulla Repubblica locale di Bari oggi c'è un approfondimento, lo dico perché ovviamente non perché possiate leggerla, ma perché non ci va sui giornali nazionali questa cosa. Pensate che su oltre 300 vittime, 300 delitti di sangue negli ultimi anni a matrice mafiosa, oltre l'80% è senza colpevole. Ieri se ne è occupato di nuovo il CSM e i magistrati locali, però è un tema che sui giornali nazionali non sfonda. 300 vittime e l'80% senza colpevole. L'Italia ha ancora dei buchi neri nella sua legalità, dove l'attacco invece è portato da criminalità spietata. Però siccome è Foggia, non gli importa niente a nessuno. Ed è incredibile questa faccenda, secondo me. Altro messaggio sul Friuli in tempo reale è che ci sono dei rettilinei unici in Friuli. E quindi si corre. Questo. Ah, è meraviglioso. Stiamo scoprendo delle cose notevoli, devo ammettere. Buongiorno a Carla Ruocco, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Tanto che una settimana non sentivamo un esponente del Movimento, e oggi cacio sui maccheroni per un commento al volo su cosa è successo su Banca Italia. Qual è la vostra posizione? Immagino che sia interessante, per questo l'abbiamo chiamata, perché molti dicono con questa mossa Renzi ha bruciato la carta delle banche ai 5 Stelle. Pensa che fosse questa l'intenzione? No, i cittadini sono sufficientemente intelligenti, non bisogna offenderli pensando che non capiscano che quella di Renzi è soltanto una mossa ipocrita che tende a rincorrere invece il Movimento 5 Stelle, che alla fine non porta a nulla perché è una bagarre interna solo per depistare l'attenzione su tutti quelli che sono i conflitti di interesse che il Partito Democratico, il governo che ha condotto nel passato Matteo Renzi e tuttora, perché sappiamo ma sia che sincera, voi meditavate un attacco. Il padre che ha gestito la Banca Etruria e che è stata appunto travolta dal crack finanziario che ha buttato per strada purtroppo dei decine di migliaia di risparmiatori inconsapevoli. Voi meditavate un attacco su questo tema, proprio su, cioè meditavate di farne un punto di campagna politica? Noi non facciamo campagna elettorale sulle banche, su argomenti così seri per i cittadini, noi vogliamo solamente far chiarezza. Visco ha delle responsabilità pesantissime, anzi le dirò di più, che è uno scandalo che ieri si sia presentato in via del tutto informale, senza avvertire i gruppi, senza che il presidente Casini avvertisse i gruppi parlamentari, cioè alla fine solo il Movimento 5 Stelle, presso la commissione d'inchiesta sulle banche, perché ieri d'amblè, senza che noi sapessimo nulla, cioè che il Movimento 5 Stelle, che è l'unica forza politica non invischiata praticamente con conflitti di interessi all'interno del sistema bancario, non venisse minimamente avvisata. Beh, ora, gli unici andasse a parlare con il presidente Casini, quindi in violazione totale del regolamento della commissione d'inchiesta stessa. Allora, però non era un'audizione, era la consegna dei documenti. Peggio, perché le audizioni sono calendarizzate, certo. E quindi invece in questo caso noi non siamo stati informati. Perché questo incontro a porte chiuse? Perché non hanno sentito la necessità secondo di lei informare perché? La prima forza secondo lei, lo dica lei, Parlamento? Perché? Perché quando si tratta dell'argomento banche, un argomento bollente dove fare trasparenza fa del male al vecchio sistema politico che si autodifende, anche la scelta di un presidente come Casini, ora nulla di personale contro questo presidente, però sicuramente non garantisce una apertura verso la trasparenza. Mi scusi, un però... modo di... Scusi, ma allora voi siete d'accordo nel merito con Renzi? Cioè voi pensate ma che dovrebbe Renzi essere rimosso? No, aspetti un attimo, per favore, noi siamo coerenti e Renzi ci ha rincorso, ha fatto la rincorsina finale dell'ultimo istante, salvo poi in tutto questo quadro si riconfermerà Visco, perché di fatto andrà a finire così, e Renzi ha fatto la sua bella finta per depistare l'attenzione dal fatto che Renzi è una delle prime persone che non ha nessun interesse a che si faccia trasparenza sulle vere responsabilità della scellerata gestione del risparmio. Bene. In Italia. Oscar. Io però, senta, si mette nei panni gli ascoltatori. Gli ascoltatori vorrebbero, dalle forze politiche, conoscere più le posizioni sul merito che il rimpiattino su chi ha inseguito chi. Io lo capisco, cioè, potete avere ragione, eccetera, però stando sul merito, la risoluzione approvata comunque dal Parlamento con l'assenzione di Forza e quella del PD significa per voi che Gentiloni a questo punto deve sostituirlo Visco oppure no? Ma certo, ma per noi non siamo entrati nella bagarre, noi abbiamo detto che Visco si sarebbe dovuto dimettere al tempo degli scandali e vuotare il sacco su quelle che sono le responsabilità di Banca Italia, tantomeno adesso va confermato, ma non se ne parla proprio, è una persona su cui grava il peso di responsabilità peraltro non chiarite e quindi non va assolutamente riconfermato, ma questo è chiaro. Ecco, e secondo voi, una volta chiarito questo, che ci ascolta, sarebbe meglio evitare la continuità pescando un membro del direttorio che ha comunque quindi condiviso tutte le posizioni di Banca Italia e prendendo da fuori, per esempio, per rimarcare ancora di più quello che lei ha detto, oppure no, secondo voi? Ma un membro estraneo, una persona che garantisca comunque una vigilanza coerente. Il ministro Padoan le andrebbe bene? No, vabbè, nomi in questo contesto. Ma ci dica il profilo, uno come, che ne so. Ma no, guardi, non penso che in Italia non ci sia una persona all'interno anche del sistema bancario che, precisiamolo, ce la deve dire. Non è tutto marcio, perché sarebbe assolutamente sarebbe un'illazione ingiusta. Quindi bisogna identificare un profilo all'interno Bazzoli del sistema bancario. Bazzoli le piace? E adesso no, guardi, i nomi che sta facendo veramente non... i nomi che facciamo noi non le piacciono. Zecchia apposta identificando personalità. Quelli che piacciono a lei non ce li dice. In sede opportuna si dovrà discutere di questo e il Movimento 5 Stelle dovrà presentare, ma nel momento in cui... State diventando molto prudenti, molto però guardi, scusi, guardi che il momento non c'è, i partiti non prendono parte, il Parlamento nella nomina non prende alcuna parte istituzionale, quindi però l'opinione la puoi esprimere. L'opinione gliela stiamo chiedendo giornalisticamente, però lei diceva quando verrà il momento. Il momento è questo perché l'unica cosa è dirlo pubblicamente, perché non è che lo potete dire nel segreto delle stanze nell'orecchio a qualcuno. Questo non è il momento per influenzare una scelta del genere con un profilo già definito, ma comunque in Italia non è possibile che non ci sia una persona diversa dal governatore Visco e debba essere riconfermato colui che si è macchiato di queste responsabilità, quindi questo è assolutamente inaccettabile. Allora sentiamo l'ascoltatore Giuseppe da Napoli e sentiamo cosa ha da chiederle o da chiederci. Buongiorno, io chiamo per manifestare il mio pieno accordo con il documento politico che è stato firmato, perché non è possibile che in Italia, dopo che abbiamo parlato per anni, gente che ha perso centinaia di milioni, ha perso i soldi, due organi importanti, Consob e Banca d'Italia, non si possa fare un documento e dire che bisogna fare punto e da capo, ma vogliamo scherzare, vogliamo parlare di autonomia, ma quale autonomia? Quasi sono state comprate banche a 4 volte il prezzo, chi doveva controllare? Consob e Banca d'Italia, purtroppo devono essere rigovernate in un modo diverso, non c'è poco da fare, la gente ha perso i soldi, ha azzerato i propri risparmi, ma stiamo scherzando? E vogliamo discutere di autonomia? Io non sono proprio d'accordo, sono d'accordo che qualcuno ha incominciato a dire mettiamo un punto fermo e andiamo da capo. Ma allora, però l'unica obiezione è che allora non c'era bisogno di un documento segreto a sorpresa, cioè bisognava fare una campagna politica dicendo quello che ha ripetuto lei, che è ovviamente è una posizione politica. La mozione parlamentare è un documento in cui si esprime una volontà, punto. Per me penso che, perché tutto sto cancan non l'ho capito, la gente ha perso i soldi, lo vogliamo capire, gente ha perso centinaia di milioni per anni. Giuseppe, si figuri, io da anni chiedo che si faccia un dibattito pubblico, però io lo chiedevo il tempo giusto non è l'ultimo momento di campagna elettorale, soprattutto per un ex premier che ha avuto anni per poter aprire questo dibattito e tenerlo nelle forme anche rispettose e dovute istituzionali, perché allora è ancora più serio. Non si dimentichi tra l'altro che a promuovere quella risoluzione è lo stesso che andò in televisione a dire agli italiani comprate titoli MPS perché la banca è risanata. Allora lei capisce che la gente se le ricorda queste cose e dice tu però non è che sei proprio in linea, visto che poi MPS è andata gambe all'aria, e come giustamente dice lei, lì come in Veneto, come in tante altri casi, 12 banche, 64 miliardi di euro di valore bruciato, sono un'infinità e la gente ci ha perso i soldi. Allora, pubblicità e subito dopo sentiamo il parere della Ruocco. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Mattino. Rieccoci, 8:36 minuti, arrivano le vostre telefonate sui temi più disparati, ma anche sulle banche, 800 24 00 24. Carla Ruocco è ancora lì? Sì, eccomi, buongiorno. Intanto una curiosità, perché sa che qui combiniamo, c'è grande polemica sui punti della patente, perché abbiamo letto le statistiche, e lei ha avuto qualche sanzione ultimamente? Ultimamente no, però mi è capitato di avere delle sanzioni. Ho eccesso di velocità? Pagato. Che cosa ha fatto? Divieto di sosta. Ah, va bene. No, perché qualcuno scrive: ho avuto la multa a Milano per 71 km all'ora. Poi arriva una proposta che lei deve sostenere. Oscar Giannino, governatore di Banca Italia. Ma siamo matti. Ma perché vuoi mettere pensa tutto che a circo? Che ci sarebbe per la tua relazione, fammi Oscar. Sottoscrivere il protocollo, caro Ruocco. Ci sono in Italia tante persone degne di grande prestigio, autorevolezza. Non dimentichiamo, la Banca Italia fa parte del sistema europeo di banche centrali. L'anno prossimo finisce il QI. Ci vuole una personalità straordinaria che conosca di moneta e vigilanza. In Italia ce ne sono, anch'io condivido il protocollo Ruocco. Quale Giannino? Non lo so. Sandra da Treviso. Sandra? Io volevo, sì, ecco. Mi sente? Prego. Buongiorno. Vada. Volevo dire qualcosa in merito alla mozione Renzi contro la Banca d'Italia, contro Visco. Siamo qui apposta. Allora, la premessa è che Visco comunque ha delle responsabilità e Banca Italia ha delle responsabilità in merito alla vigilanza, che non c'è stato, ce n'è stata molto poca. Però trovo veramente incredibile l'atteggiamento di Matteo Renzi, che con questa mozione ha fatto un autogol al suo governo, nel senso che gli è andato proprio contro. Ma chissà se autogol o deliberato, perché sa, la linea sembra quella sempre di indebolirlo. Allora, diciamo un deliberato, ecco, autogol. Ecco. E diciamo che è anche una mossa estremamente elettorale, molto fra virgolette populista, anche se il termine non mi piace, e in questo modo si è smarcato o ha voluto smarcarsi dal problema delle banche, ma proprio in maniera sì. definitiva. Esatto. E il fatto è che secondo me, ed è la cosa che mi dà più fastidio, è che crede veramente che gli italiani siano stupidi, perché ecco. Lui c'è stato 3 anni al governo e quindi... Puntini. Allora, una domanda che ci arriva via SMS è che però giro a Carla Ruocco, perché questo ascoltatore dice: ma se fossero proprio le carte di Visco che riguardano Etruria consegnate ieri in commissione la ragione di un attacco? Ora non voglio entrare in dietrologie, ma la domanda da Ruocco è: quando le vedrete quelle carte? Perché a questo punto siamo curiosi. Se fossero quelle carte, ancor di più è gravissimo che non ci fosse nessuno del Movimento 5 Stelle presente. Vabbè, ma mica le nascondono, però. Mica le nascondono, le vedrete. Guardi, era una riunione a porte chiuse e io vorrei sottolineare la gravità di questa circostanza. Uno riceve informalmente il governatore della Banca d'Italia in una situazione così critica, a porte chiuse, con Brunetta e Marino, e senza interpellare minimamente l'altro gruppo parlamentare, quello che poi ha caldeggiato per la ma questo lei lo ha già detto più di tutti quanti. Quando le vedrete? A maggior ragione queste carte adesso sono lì. Quali carte sono state consegnate? Cosa riguardano quelle carte? E poi chi ce le farà vedere, se ce le faranno vedere a questo punto? Che ne sappiamo se non ci sarà una scrematura tra le carte che ha presentato Visco però, a questo punto? Chiedetele allora a Visco. Perché fare gli incontri a porte chiuse? C'è una procedura, si faceva una convocazione, c'è anche un modo per consegnare in maniera meno spettacolare del materiale presso la Commissione in via formale, che poi viene analizzato nel corso delle audizioni formali. Così si lavora in trasparenza. Cioè, la Commissione d'inchiesta è una commissione inquirente. In questo momento i membri della Commissione hanno lo stesso potere della magistratura. Della magistratura, ma lei l'ha mai visto un magistrato che in qualche maniera a porte chiuse incontra un indagato e senza dirlo, cioè in maniera totalmente informale? Questo ha sbagliato Casini? Lei sta dicendo che Casini ha sbagliato? Casini ha violato il regolamento, non è che lo dico io, Casini ha violato il regolamento. Mi dica se lei conosce un magistrato che incontra gli indagati e che gli consegnano i fascicoli senza un procedimento. Nicola da Padova. Pronto, buongiorno sì. A tutti, complimenti per la trasmissione. Io volevo è tutto solo merito dare... di Oscar però, eh? Non è vero, merito di Luca. Beh, io seguo voi e Bordin su Radio Radicale. No, quindi... e quella è la concorrenza, siamo pazzi. No, vabbè, scherzo, Nicola, dica. Allora io volevo dire una cosa in proposito alla mossa della Boschi, che non ha informato i membri del governo in merito alla Banca d'Italia, eccetera, a modifiche, eccetera. Io credo che questo denoti una intromissione eccessiva del partito di maggioranza nei confronti del governo e sia una mossa in campagna elettorale, un basso colpo di Renzi nei confronti del governo. L'autogol voluto che diceva l'ascoltatrice. Ecco, e credo che noi italiani non ci meritiamo una classe dirigente di questo tipo e che dobbiamo far valere il nostro parere, la nostra volontà alle elezioni. Ecco, però qui entra un'altra cosa molto importante, la legge elettorale e come noi votiamo. La legge elettorale che sta per essere approvata, secondo me, ma è un mio parere, non è buona. E poi dobbiamo prepararci a creare una nuova classe politica partendo dalle scuole. La scuola, la buona scuola, la riforma, eccetera, secondo me non sta funzionando affatto, lo vedo sulle mie figlie, ne ho tre, lo vedo su mia moglie che è un'insegnante, come diciamo, affronta ogni giorno sia le problematiche interne alla scuola sia di didattica, e non possiamo permetterci di far passare tutti i ragazzi con il 6 politico, lasciatemi passare questa cosa, pur di dire che la scuola funzioni. Bravo Nicola, l'unica mia osservazione, io sono d'accordo con tutto quello che ha detto, soprattutto perché nel merito questa modalità di aver aspettato la campagna elettorale e poi differenziarsi in questa maniera così ruvida contro il suo stesso governo, contro il capo dello Stato che ha eletto e scelto lui, rompendo il patto, come esatto. Su questo, e da parte di Renzi, in realtà è esattamente ciò che impedisce una discussione seria su cosa non ha funzionato sulla crisi bancaria e quanto pesante sia la collusione, perché non è solo Banca d'Italia, è una collusione vasta. C'è l'Accademia, esatto, in mezzo che firma le perizie, ci sono le rappresentanze delle imprese in tutte le banche. Insomma, è una questione molto importante che meritava un dibattito serio. E così va tutto in banca elettorale. Ecco, no, io in questo sono molto, molto, molto d'accordo con lei. Ma è proprio, secondo me, perché Renzi ne è consapevole che si inventa questa banderigliata al toro perché finisca tutto in campagna elettorale. Cioè, effettivamente lui, Luca, come dicevamo ieri, io non ho cambiato idea, lui voleva io contro tutti, è deliberato e ci riesce da questo punto di vista, riallinea tutti dall'altra parte. Poi che questo gli riesca elettoralmente, auguri, io non so cosa dire, ma è un peccato ridurre a questione elettorale. Ma lo chiediamo alla Ruocco, una mia idea, secondo me se l'obiettivo è sottrarre consenso ai 5 Stelle su questo tema, lui non recupera un voto su questo, no, magari fa polvere, magari prende in mano l'agenda, è abilissimo, attenzione, a cavalcare questa cosa. Però io devo chiedere a Ruocco se ha letto ieri il pezzo di Tommaso Ciriaco su Repubblica che citavamo, in cui Renzi dice con questa legge il Movimento 5 Stelle non becca neanche un collegio. Se ha letto questo, ma guardi, questo è una vergogna. Tra l'altro, io appunto. Sì, ma che lei si arrabbiasse lo sapevo. No, se pensa che sia vero. Cogliendo anche l'invito del dottor Giannini, che giustamente non vuole, vuole che si entri nel merito dei problemi ed è corretto così. Io non voglio neanche parlare del fatto che il Rosatellum è impacchettato contro il Movimento 5 Stelle, perché questo è palese. No, ma le chiedo questa profezia specifica. Le coalizioni sono avvantaggiate, il Movimento 5 Stelle non va in coalizione. Ma il problema è che ha polverizzato il diritto di scelta dei cittadini rispetto ai loro rappresentanti politici. No, guardi, noi su questo ci siamo espressi qua, sia io che Oscar abbiamo detto perché non ci piace la legge. Ma le chiedo, pensa veramente che se passa la legge al Senato voi non beccherete neanche un collegio uninominale? Non la voglio commentare questa frase, non la voglio proprio commentare. Me lo risparmi questo commento, perché io non ce la posso fare. L'idea di poter fare delle alleanze invece mali estremi, estremi rimedi? Con questa gente assolutamente no, con gente che comunque si comporta in questo modo su tematiche così importanti, sui reati bancari, appunto l'ascoltatore diceva prima quanto siano scottanti queste questioni per i cittadini, sulla scuola ci sia questa gestione così rovinosa. No, nessuna alleanza. Lega compresa. Grazie. Lega compresa. Grazie a Carla Ruocco, Lega compresa. Felice da Monza e Brianza, buongiorno sì. Signor Ruocco, la sentiremo ancora. Buongiorno a tutti. Ecco, io, parli. Chiamo per quanto riguarda tutto quello che è successo con le banche. Io ho un mio caso particolare dove negli anni 90, come risparmiatore, tra 74 anni evidentemente, qualche risparmio è stato messo sul mercato azionario. Compro delle azioni popolari avendo fiducia delle popolari. Perché non comprare la Popolare di Milano, la Popolare di Bergamo, allora chi lo sa? Avevo preso invece delle banche etruriche pensando una banca dando fiducia, più di fiducia alle banche allora negli anni 80-90 non si possa pensare, e questo è stato poi la conseguenza dei disastri senza i controlli di Banca Italia e Consob. Ho avuto una perdita di Banca Etruria quando l'hanno tolta, ancora prima dell'introduzione del Berlin, circa 30.000 euro, che erano attestati a mia moglie, e mia moglie muore l'anno scorso. Io faccio tutto, quello pagando le tasse di tutto il resto, delle Banche Etruria zero, e chiedo la minusvalenza, perché se io ho delle azioni che vendo e ho delle plusvalenze, assolutamente la banca mi dice no, è stata cancellata completamente. E anche le minusvalenze, tu non hai diritto ad avere le minusvalenze della Banca Popolare Etruria. Praticamente sono 30.000 perse come capitale, ma non posso neanche, nel caso dovessi vendere delle azioni, delle altre banche che ho ancora, perché ho delle grosse perdite per tutto quello che è successo, per le ladrate che hanno fatto, perché quasi tutti hanno messo le ruote sotto la banca, per portarsela via, queste 30.000 misurenti sono finite, anche queste. Questo è il risultato. Oltretutto, questo è il risultato della legge, di quello che hanno, degli articoli che hanno fatto. Perché ho chiesto un'altra banca, è così. Bene, e Oscar? Però, si dice, io da anni la cosa che faccio è chiedere a tutti voi, vastissimo popolo di risparmiatori, formichine tenacissime e straordinarie italiane, di ragionare meglio nel tempo sulle scelte che fate, non comprare cose fidandovi. Voi dite sempre: mi sono fidato. I soldi li avete, quando li avete messi da parte, sono il frutto del vostro lavoro. Ma voi vi date la chiave di casa alla gente così? Perché date i soldi invece alla gente così? E non vi preoccupate sempre di ragionarci sopra? Dice: mi sono fidato. Ecco, la sintesi estrema, perché lei giustamente dice: non mi riconosco la minusvalenza. No, perché quando c'è discontinuità in una banca avviata a risoluzione, non è come se lei avesse registrato minusvalenza in un corso di borsa, capisce? Perché è un evento straordinario la discontinuità. Ma non è questo il punto. Il punto è che purtroppo dire mi sono fidato, quando si tratta di banche, ma quando si tratta di imprese, di investimenti, è sempre sbagliato. Perché c'erano, mi dia retta, tantissimi elementi prima di arrivare alla risoluzione subendo le conseguenze, cioè perdendo i soldi sui titoli, le azioni e le obbligazioni, tantissimi elementi che sconsigliavano di tenere, tantissimi elementi che per anni, quando dicevano, e io ero additato come gufo anche in questa radio, perché dicevo non è vero che il sistema bancario come vi raccontano è il più sano del mondo, voi ci avete creduto e dite ancora adesso, ce lo diceva la Banca d'Italia, ce lo dicevano i governi, ce lo diceva la Consob, ma gli elementi fattuali, i numeri che conoscevamo a sapere leggere, ci dicevano che non era vero. Fidatevi di più di chi vi dice guardiamo i numeri insieme e fatevi venire i dubbi. Purtroppo questa è l'unica cosa che possiamo dire a chi ha perso i soldi, però capisco che voi siete molto arrabbiati con chi vi raccontava che le banche erano sane. Allora, critiche anche per noi, caro Oscar. Qualcuno dice: ma perché non chiedi Oscar e perché non dici tu che cosa pensi di questa vicenda? Sì, però dovete sentirci tutti i giorni, ragazzi, perché no, noi ieri abbiamo spiegato chiarissimamente, lo stiamo in qualche modo ripetendo oggi. Ho fatto un'ora anche ieri pomeriggio, cioè, tutta su questo, quindi, per carità, tutto legittimo. Tutto potete però dirci, soprattutto a me e al signore che è qui davanti, tranne che non diciamo le nostre idee, le diciamo sempre e ci esponiamo, perché è giusto così, perché noi siamo qui per dare anche delle opinioni, notizie e opinioni, spesso separate. Invece una domanda per te, così magari potremmo cambiare pagina. Caro Oscar, che cosa mi dici del rilievo del 2% sulle polizze vita? 2 per 1000 ovviamente. Che è una bella smettita di chi dice ogni volta non ci sono tasse nuove. Prima ancora di avere il testo, perché non ce l'abbiamo ancora quello preciso della legge di bilancio, quando arrivano le prime indiscrezioni, eccole lì le tasse nuove, una patrimonialina del 2 per 1000, 800 milioni di euro, no? Però non è tantissimo quello che portano a casa, non è tantissimo, però... ma sulle polizze vita, cioè in un paese che siccome ha delle difficoltà a dare per fare tutti il welfare, e invece noi continuiamo a inventarci prelievi sul risparmio a fine previdenziale. Sai che qui c'è una motivazione ideologica, però, secondo me, perché loro dicono, e qui c'è il caso famoso di Marra che aveva intestato le polizze vita, loro dicono, ma in fondo sono una forma di investimento, sono delle polizze vita vere e proprie, cioè un modo per investire il denaro camuffandolo da polizze. Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Sto dicendo la parte del diavolo, no? La parte del diavolo, perché hanno un regime fiscale più vantaggioso rispetto ad altre forme di investimento diretto. Ma sono a tutela di rischi straordinari, e che cosa raccontiamo? Cioè, ripeto, faccio un altro esempio, allora c'è il sisma, scopriamo tutti che nei paesi che sono esposti a rischi sismici, come noi storicamente, si è sviluppata nel tempo una avveduta linea di estesa assicurazione prevenzionale sugli edifici. Da noi no, no e no. E invece di incentivarle, noi le forme di assicurazione contro assicurazione privata ci inventiamo, perché abbiamo bisogno di soldi all'ultimo momento, al di fuori di ogni disegno organico. È così che si manda a puttana un sistema fiscale, ci si inventa una tassa qua, una tassa là, manca ogni tipo di logica. Questo non ha senso se non reperire dei denari facili, e vedrai quante altre ne scopriremo prima dell'approvazione della legge di bilancio. Allora c'è chi ci dice di essere grillino e contemporaneamente altri che dicono vi siete arrampicati su vetri per non dare ragione all'ascoltatore che diceva ho perso tutto, ma noi il contrario. Abbiamo detto hai ragione, e lo dico perché ha ragione dal punto di vista legale, perché i frontespizi, i prospetti di rischio sono stati omessi, spostati da questi contratti, quindi io sono assolutamente d'accordo. Che però Oscar dica state attenti, metteteci 4 occhi prima di firmare, beh, questo non mi vi fidate di chi ovvio. Sui giornali, perché di io ricevo molto con gli accademici che sono quelli che hanno firmato le perizie nelle banche e regolarmente trovati in prima linea a difendere manager bancari e regolatori. Quelli, ecco, di quelli è meglio, di tanti di loro, non voglio generalizzare, ma di tanti di loro è meglio non fidarsi quando vi dicono che le banche è un attacco dei tedeschi. No, le banche italiane c'erano i guai in casa, ecco. Elena da Reggio Emilia. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io mi ricollego con quello che ha appena finito di dire Giannino, no? Che noi risparmiatori tenacissimi, formichine, dovremmo essere più attenti e non fidarsi. Però è anche vero che la materia bancaria è assolutamente difficile, molto complicata. Giusto. O uno è un ragioniere oppure ha fatto economia e commercio. Io personalmente mi sono laureata in lettere classiche, faccio molta fatica ad approcciarmi ad un testo bancario, quindi mi fido. No, perché magari... aspetti, tra il... lei tutto giusto quello che ha detto, e poi dice quindi mi fido. No, prima del mi fido, visto che i soldi sono suoi e nessuno gliela ha regalati, parliamo, un consulente indipendente, non della stessa banca, ci sono. Dove sono? Allora, vada sul sito, le faccio proprio le do un'indicazione pratica. Istruzioni vada sul sito Ascosim, tutto attaccato, www.ascosim.it, sì, che sì. È una delle organizzazioni che coordina i consulenti finanziari indipendenti, che quindi non appartengono alle reti bancarie, quindi non hanno l'interesse della banca dietro di piazzarle i titoli della banca. Vada a vedere quelle che sono scritte e trovi l'elenco, lì c'è l'elenco, quelli che le possono interessare, consulenti indipendenti. Per esempio, questo è un mio consiglio concreto, perché lei ha ragione, dice io non ne capisco, non posso fidarmi. Esistono anche consiglieri indipendenti, però penso anche che un bancario debba avere un'etica professionale, una deontologia come un interessante medico, problema, no? Noi facciamo molti convegni sul fatto che quelli che trovano lo sportello hanno l'input dall'alto di vendi questo prodotto e io ti do il tot per cento, però devi vendere questo e non considerarne un altro. Il conflitto di interesse della rete è molto pensierino forte. Pensierino finale in 10 secondi: bene ha fatto il TAR, il padre doveva essere informato della bocciatura perché era affidatario anche lui. Tiè, Oscar, intervista per me horror del giorno, Sergio Scalpellini a Repubblica, per me è un onore dare le case gratis ai politici, ma vai a quel paese, vai! Dottor J e Mister I, trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8, jgalileo.com. Vi ha presentato 24 mattino.